Le nostre tre associazioni, Pilot in Tank, Lega Ambiente Bologna e Libera Bologna, hanno unito le forze. Siamo tre associazioni che lavorano da tempo sul tema del monitoraggio dei fondi, sulla parità di genere, la tutela ambientale e rispetto alla legalità e contrasto alle mafie. E quindi, nel momento in cui arrivano sul nostro territorio una mole di fondi straordinaria, è ancora più urgente, ancora più significativo che la cittadinanza si attivi per riuscire a monitorarne l'impatto. Quindi, gli obiettivi principali di questo osservatorio che nasce sono quelli di richiedere all'istituzione dati aperti, aggiornati, periodici, per monitorare e gli indicatori che useranno per monitorare l'impatto che i fondi avranno. Il secondo è quello di fare in modo che le associazioni, gli enti del terzo settore possano far parte della cabina di regia che si confronterà sull'attuazione del piano. Quindi è importante che la voce delle realtà che tutti i giorni lavorano su tantissimi temi che riguardano il piano siano coinvolte. E l'ultimo macro obiettivo è quello di promuovere la formazione e l'informazione, perché ancora tante persone non sono consapevoli di che cosa sia il piano, che cosa comporterà e quali sono le misure. Quindi è importante che su questo ci sia la massima informazione possibile. Per questo motivo l'osservatorio lavorerà per restituire un report semestrale da promuovere per dare risultati ed esiti di quello che sta accadendo, ma anche per formare le istituzioni, perché per esempio sull'impatto di genere è uno dei grandi temi che ancora l'Italia non ha cominciato a mettere in pratica, e quindi per noi quella è un'urgenza particolare. Infatti, diciamo, per noi come Pilot in Tank, andando poi un attimino nello specifico delle nostre, diciamo, tematiche, è quello di far monitorare l'impatto di genere, perché i fondi diretti stanziati alla parità di genere sono solo l'1,6%. Questa cosa ovviamente ci allerta moltissimo, perché la stragrande maggioranza delle risorse, l'80%, dipenderà totalmente dall'attuazione che avrà il piano, il tipo di impatto che avrà. Quindi se non monitoriamo nei territori che cosa faranno le istituzioni per mettere a terra i progetti, rischiamo che questa mole di fondi non avrà l'impatto sperato per chiudere i divari di genere. Però è fondamentale anche una dei pilastri è quello sulla transizione ecologica, quindi è fondamentale anche lo sguardo sui temi ambientali e vedere che tipo di indicatori saranno messi a disposizione, che tipo di impegni e monitoraggi stringenti saranno fatti su tutte, diciamo, i soggetti che realizzeranno praticamente lavori di edilizia e quant'altro sul territorio. E questo si aggancia anche al tema della legalità e contrasto alle mafie, cioè monitorare sul territorio chi vincerà gli appalti, che tipo di aziende sono, e questo è un altro tema fondamentale su cui Libera Bologna si sta spendendo moltissimo. C'è già un impegno del Comune di Bologna su fornire dati in tal senso, ma l'impegno di Libera è nel far sì che tutti i comuni della città metropolitana, quindi sia capillare questo impegno da parte di tutti i comuni in tal senso. Che canali utilizzerete per informare i cittadini del vostro lavoro e di come poter proprio anche interagire con questo osservatorio? Abbiamo aperto un sito ad hoc, www.osservatoriocivicopnrrbologna.it, dove pubblicheremo i nostri report semestrali, e ci impegneremo però anche a fare delle attività sul territorio di formazione e informazione. Abbiamo già in programma 4 appuntamenti per scuole di monitoraggio, quindi proprio per dare gli strumenti alle persone per capire come poter fare il monitoraggio, sia se sia un'associazione o un gruppo, ma anche persone singole per poter monitorare. Quindi li faremo specifici su tutti e tre i temi: parità di genere, sguardo sull'impatto ambientale e anche sul rispetto alla legalità e contrasto alle mafie. E il primissimo, per esempio a Bologna, visto che comincia già domani, dal 24 al 26 giugno c'è il Festival della Partecipazione, e domenica pomeriggio, il 26 giugno, all'interno del festival c'è la prima scuola di monitoraggio a cui vi invitiamo a partecipare. Vi risulta che esistano osservatori civici su base cittadina, metropolitana, sul PNRR e anche in altre zone d'Italia, o siete il primo? Al momento no, che noi sappiamo no. Ci sono delle realtà nazionali come l'Osservatorio Civico PNRR Nazionale e la rete Libenter, ma che noi sappiamo ad ora no, territoriale no. Ci auguriamo che il lancio di questo, abbiamo cercato infatti di farlo con una tempistica diciamo celere, quando ancora si sta aspettando che escano i dati, per far sì che altre realtà si muovano territorialmente. Noi stesse, per esempio, come Pilot in Tank sull'impatto di genere, abbiamo in programma di fare delle scuole in altre città metropolitane, stimolare la nascita di altri osservatori nelle altre città metropolitane e anche nei comuni più piccoli. Si è detto che questi fondi dovrebbero anche servire a ridurre le diseguaglianze. Il comune, la città metropolitana di Bologna, avrà a disposizione almeno 780 milioni di euro. Per adesso, nei progetti che sono stati presentati, la distribuzione vi soddisfa? Per adesso le informazioni non sono sufficienti per poterlo fare. Noi adesso sappiamo che dovrebbe uscire a breve un portale chiamato Bologna Domani, che ha la funzione di dover fornire informazioni proprio sui progetti. Quindi diciamo che aspettiamo di rispondersi per avere una risposta precisa appena uscirà questo portale, e il nostro impegno è entro la fine dell'anno di far uscire il primo report semestrale. Sicuramente faremo anche in modo, al momento in cui ci siano delle cose macro, anche di dare restituzioni prima dei 6 mesi, se ci sono per esempio notizie o mancanza di dati, per esempio se ci sono troppi dati e non abbiamo abbastanza informazioni, faremo anche il possibile richiamare l'attenzione nel fatto che vengano fornite e permetterci proprio di restituire l'andamento delle progettazioni.